Bene, allora io intanto proseguo con i ringraziamenti, così ringrazio David per la fiducia, a dire la No, io verità, perché ringrazio insomma ci te. conosciamo, ci siamo conosciuti come colleghi al Torricelli, al liceo scientifico, siamo stati anche colleghi di classe, quindi abbiamo anche collaborato in alcune occasioni con una codocenza in una classe Memorabile. su Nietzsche che avevamo in comune. Poi mi ha sempre un po' tenuto così al corrente rispetto ai racconti che scriveva, insomma, le sue performance di scrittore, e recentemente, insomma, quest'estate, prima delle vacanze, mi ha La sorpresa. contattato, esatto, la sorpresa con questo suo nuovo romanzo, racconto lungo, romanzo breve, insomma, mi ha solo convinto, mi ha convinto perché mi ha detto sono 90 pagine, ho detto ce la posso fare a leggerlo. E quindi, insomma, Tutti ce la possono sì, fare. sulla fiducia gli ho detto sì, volentieri, insomma, presenterò il tuo libro, quindi lo ringrazio per questo. Ed ero anche curiosa, insomma, di cimentarmi con una scrittura un pochettino più complessa come quella di un romanzo piuttosto che del racconto, dei piccoli racconti brevi, insomma, che mi aveva già inviato. Volevi aggiungere qualcosa Ma io sul... voglio ringraziare chi è venuto questa sera a sentirci, insomma, grazie di essere venuti. Ringrazio Valeria Trevisan, come sempre molto molto Figure. accogliente, ospitale. Ringrazio te, insomma, Denise, che ti sei prestata, insomma, a Mi devi ringraziare dopo, però. sopportarmi. Va bene. Io partirei così proprio in medias res, insomma, dicendo due cosine proprio sulla trama di questo romanzo per farvi entrare un pochettino dentro, ovviamente non tutto perché sarebbe quantomeno poco carino nei confronti dell'autore, però brevemente diciamo che c'è questo protagonista che è Marco, che è un professore di filosofia che vive a Laives in un capannone industriale ai margini, insomma, alla periferia, ecco, di Laives, e è un capannone di cui lui fa il custode. E gli piace molto questa atmosfera, insomma, silenziosa, isolata in cui riesce a vivere, e si accompagna, diciamo, a una giovane donna che è appunto Giada. Questa ragazza è in partenza per le vacanze estive, giusto appunto, con le sue amiche, andrà in vacanza appunto in Sicilia, e quindi Marco ne approfitta un pochettino per organizzarsi quella che sarà la sua estate da professore. Quindi noi abbiamo, come dicono tutti, 3 mesi, ma non è vero, insomma, un'estate non più lunghissima, ma un'estate in cui il professore può dedicarsi a quello che gli piace, cioè le camminate in montagna, andare a trovare il padre e dedicarsi alle letture, come insomma spesso molti professori fanno. A Marco quindi si prospetta un'estate abbastanza tranquilla. In realtà poi, diciamo, la trama si muove perché giunge inaspettata, insomma, la richiesta da parte di un suo ex professore dell'Università di Bologna, un ex professore di filosofia, che gli comunica che stanno attivando, insomma, una nuova rivista filosofica, e quindi gli chiede di prendere in considerazione l'idea di scrivere un saggio filosofico. Inizialmente non è molto, insomma, per la quale, però poi si lascia convincere dal fatto che appunto Giada non ci sia, il padre gli ricorda che hanno a disposizione questo casale in Umbria, e quindi lui ne approfitta e si convince, insomma, ad andare in Umbria a recuperare questo appartamento, insomma, questa casa che è di appartenenza della famiglia, di rimetterla un po' in sesto e di dedicarsi a quello che riesce, dovrebbe riuscirgli bene, cioè la scrittura di questo saggio sul relativismo, insomma, filosofico. In realtà, i casali, insomma, che lui incontra in questo borgo Chiabella, insomma, che lui ritrova di questo casale dell'infanzia, risultano quasi tutti abbandonati, tranne uno di fronte al suo casale, che invece è abitato da due figure, insomma, due ragazzi. Una sarà Nicole e l'altra sarà la figura di Javier. Nel momento in cui Marco entrerà in contatto con queste due figure, diciamo, la trama si fa un pochettino più intensa e qualcosa si muove nell'animo di Marco, lo inquieta. Io mi fermerei qua Sì, per sì, non sì. aggiungere nient'altro, però Adesso stempero un po' gli animi, perché ovviamente no, la domanda gli è stata posta in mille occasioni, ma è Me un la puoi romanzo fare, autobiografico, te la me la puoi devo fare fare. anche tu, No, non è sì. vero, stempero un pochettino perché chiaramente diciamo gli elementi sembrerebbero andare in quella direzione, invece io ti volevo chiedere da che cosa è nata l'idea di questo romanzo, insomma. Guarda, se mi passi la battuta, io ci ho messo 30 anni e 2 mesi a scrivere questo romanzo. 2 mesi la stesura e 30 anni per autoconvincermi a provarci, no? Con la narrazione. E, sì, diciamo che quando si scrive, lo scrivere è la risposta a un'urgenza espressiva, diciamo così. E io questa urgenza espressiva l'ho sempre vissuta, l'ho sempre avuta, nel senso che avevo l'impressione, ho sempre avuto l'impressione che la narrazione potesse essere nelle mie corde. Però io ho sempre resistito a provarmi su questo banco, nel senso che io non sono una persona pigra, l'ho fatto per paura, adesso lo dico esplicitamente, l'ho fatto per paura nel senso che, sapendo come sono, avevo l'impressione che la scrittura potesse diventare una sorta di esperienza totalizzante, capace di assorbirmi completamente, no? Così immersiva che mi faceva in qualche maniera paura. Per cui io ho contrapposto all'urgenza espressiva una resistenza attiva e non ho scritto. Ho scritto Sì, degli quello. articoli scientifici, articoli filosofici, ho scritto un saggio filosofico, ma fino ad oggi non mi ero mai provato con la narrazione. E adesso l'ho fatto perché, paradossalmente, non perché adesso io abbia sentito maggiore urgenza espressiva rispetto al passato, quanto piuttosto perché le condizioni di contesto, ritengo, me lo consentissero. In fondo ho detto, se non lo faccio ora, insomma, potrei non farlo più. Per cui mi sono provato e ho visto che la storia ha preso corpo, insomma. Bene, allora io procederei in questo modo, vi leggo alcune parti insomma, del romanzo, se vi fa piacere, ma io ho piacere, in modo particolare l'incipit del romanzo, no? Quindi questa partita in cui incontriamo il protagonista alle prese con la fine della scuola e con una partita di calcio con i propri studenti. La partita comincia e Marco è a bordo campo, in piedi, guarda le premiazioni e già si immagina nella mischia. Ha la netta impressione che i ragazzi per ora li stiano studiando, i professori, che non vogliano andare fino in fondo ancora. Atteggiamento comprensibile. Con chi hanno a che fare? Che parte dovranno recitare? Ma non c'è dubbio che una partita è una partita e che dunque le cose cambieranno. Saranno già cambiate quando lui entrerà. Poco ma sicuro. Marco ride e fa un blando tifo ai colleghi. Alcuni li chiama per nome e lancia timidi incitamenti. Al suo fianco l'organizzatore dell'evento, il collega di educazione fisica Righini, in tuta da ginnastica e con una fasciatura al braccio destro che tiene appesa al collo. Da quanti anni l'istituto non organizzava una partita studenti-professori l'ultimo giorno di scuola? Complimenti a lui che ce l'ha fatta, pensa Marco. E maledetto me quando ho detto sì, va bene, ci sarò anch'io. I ragazzi sono seduti attorno al campetto, una massa compatta e cacciarona esposta alle pallonate e alle escursioni dei giocatori. Ma cosa importa? Ci si diverte. Non tutti però guardano la partita, che col passare dei minuti perde progressivamente di interesse. Si formano dei capannelli fra il pubblico, ragazze e ragazzi che parlano dei fatti loro, che rivolgono le spalle al campo. Alcuni, senza dare troppo nell'occhio, se ne vanno. Nel frattempo la partita si accende, i ragazzi sono più risoluti. È chiaro che non solo vogliono vincere, vogliono dare spettacolo, attirare l'attenzione. E così le entrate diventano più cattive. I professori sono stanchi e costantemente in ritardo, i ragazzi sono atletici e ormai in vena di goliardate. Marco respira profondamente, sa che è arrivato anche il suo momento. Si gira per dire qualcosa di divertente al collega, in tuta da ginnastica accanto a lui, e prima ancora di aprire bocca, una mano lo spinge risolutamente alle spalle, oltre il bordo campo, mentre sente chiamare forte il nome del collega da sostituire, Marozzi, il supplente di matematica. Qualcuno fra il pubblico grida il suo nome, sicuramente uno dei suoi studenti. Un paio di quelli che rivolgono le spalle alla partita si gira brevemente per tornare subito ai fatti suoi. Sì, va bene, ci sarò anch'io. E adesso fine, evento concluso. Marco però ora è in campo e c'è una palla da intercettare, da spedire in porta possibilmente, perciò comincia a correre. Ha le gambe di legno e il fiato corto già dopo 2 minuti. Capisce subito che non ha alcuna possibilità di prendere il pallone, a meno che qualcuno non decida di passarglielo. gira vuoto, non riesce a smarcarsi. Una ventina di anni prima, quando era un giovane professore alle prime armi e insegnava in un piccolo istituto di periferia, si era trovato in una situazione simile. La partita, quella volta, si era tenuta nella palestra della scuola con gli studenti sugli spalti. Entrato in campo, nervosissimo, aveva cominciato a correre su e giù come un forsennato e a sbagliare tutti i passaggi. Poi, all'improvviso, un pallone fra i piedi e lui solo davanti al portiere in uscita. Il colpo sotto con l'esterno del destro e la palla che rimbalza in rete. Il boato del pubblico. Problema risolto al meglio, grazie al cielo. Ora ha deciso di stanziare a centrocampo. Le azioni sono rapide e viene costantemente superato dagli avversari. Si allunga una gamba per prendere il pallone, commette sempre fallo. Le poche palle che riceve non sa smistarle, non distingue colleghi dai ragazzi, palle perse. Così decide di calciarle direttamente verso la porta avversaria, ma sono tiri fiacchi. Ogni volta deve chiedere scusa ai compagni. Le azioni lo coinvolgono sempre di meno, lui sente un crescente imbarazzo. Spera nella sostituzione, ma è entrato da troppo poco. Sulla destra un ragazzone biondo di quinta, uno dei più esagitati, sicuramente un calciatore, prende la palla e si invola verso la porta. Marco decide di contrastarlo. Gli si fa incontro a gambe larghe, mentre quello procede a testa bassa, sostenuto dai compagni fra il pubblico. Voci femminili. Un ultimo timido passo di Marco e si stanno di fronte. Il ragazzo scarta velocemente sulla sinistra, fa passare il pallone fra le sue gambe divaricate e procede indisturbato la corsa. Il colpo che però Marco riceve alla spalla destra lo fa roteare, perde l'equilibrio. Per non cadere è costretto a retrocedere, ma il busto è ormai troppo sbilanciato all'indietro e così, quando dopo due passi raggiunge il limite del campo, non può che planare di schiena sulle teste dei ragazzi che siedono in gruppo lungo il bordo. C'è un groppo di corpi con al centro Marco che annaspa, ma deve stare attento, deve contenersi. Non voglio dare una gomitata a qualche ragazzo, pensa, un calcione. Si gira cautamente su se stesso, premendo con chi gli sta ancora sotto. Sente una ragazza imprecare, uno studente lo guarda con affettata noncuranza, mentre lui da sotto abbozza un sorriso costernato. Chiede scusa, ti sei fatta male, scusa. È di nuovo in piedi e rientra in campo, tutto come se nulla fosse. Ma alla prima corsetta sente un dolore al polpaccio, si china e lo massaggia. Se qualcosa sta succedendo attorno a lui, non se ne accorge e comunque non lo riguarda più. Righini, esco! Fine della partita. Sipario, direi, no? Sì. Allora, apriamo con la figura di Marco, che però è ancora nel suo mondo, cioè quello del professore alla fine dell'anno scolastico, ma già ci sono un pochettino i confronti tra un Marco vecchio e un Marco nuovo, cioè c'è un professore un po' più aitante e prestante e un professore, diciamo, che sta già maturando una consapevolezza diversa. Com'è la figura di Marco, insomma, all'interno di questo percorso? Ma a me sembrava giusto presentarlo attraverso l'espediente della partita. Allora, ogni capitolo ha il titolo di una situazione, la partita o di un luogo. E queste situazioni, questi luoghi sono delle cornici, sono dei contesti in cui noi vediamo Marco agire. E Marco progressivamente lo conosciamo attraverso le sue azioni, il suo fare attrito con la realtà che lo circonda. E a me sembrava un espediente efficace introdurre Marco in questa situazione così, così particolare, cioè una partita di fine anno, che in fondo sì, siamo a scuola, però è un contesto particolare. E noi vediamo Marco che non è in grado di gestire questa situazione. Non è in grado di gestire questa situazione perché? Perché non sa giocare a calcio? In realtà non è così, noi non sappiamo se sa giocare a calcio o non sa giocare a calcio. È tragicamente, clamorosamente fuori contesto. L'incapacità di Marco è quello di essere parte, di farsi coinvolgere, no? In una partita di fine d'anno va benissimo non saper giocare a calcio, ci si può divertire comunque, ed è quello che Marco non è in grado di fare. Quindi sembra, diciamo così, un incipit, passatemi l'aggettivo, un incipit fantoziano, sembra un incipit in cui Marco appare una figura tragicomica, ma fra la comicità, diciamo così, e la tragedia, dal mio punto di vista, a pesare di più è il secondo aspetto, clamorosamente fuori contesto, al di fuori, diciamo così, al di fuori del flusso di quello che succede. E questa è un po' una costante di Marco, questo suo aspetto lo ritroviamo anche poi nel corso delle vicende narrate dal romanzo. L'altro aspetto che qualifica Marco, riferimento alla partita è che lui in fondo in questa situazione che poi non sa gestire si è messo con le proprie mani. Cioè Marco non si tira indietro, Marco dice di sì, poteva forse è stato più lucido, poteva immaginarsi che quello non sarebbe stato il contesto adatto per lui, però lui dice di sì. Un aspetto interessante, no, che rende complessa la figura di Marco è proprio questa, che Marco non si tira indietro, alla sua maniera è una persona risoluta che le cose le fa, purtroppo e sempre di più le fa in maniera poco lucida, e questo poi avrà un esito, diciamo così, drammatico, meno divertente, meno ludico rispetto alla situazione così della partita di fine d'anno. Però questo primo capitolo è una summa, l'epitome di quello che Marco è nel corso del romanzo. E poi è significativo questo primo capitolo perché in qualche maniera illustra anche dello stile del romanzo. Non è un romanzo psicologico, cioè io non costruisco psicologie, a me questa operazione non interessa assolutamente. I personaggi noi li conosciamo nel corso della vicenda, ma li conosciamo perché agiscono all'interno di contesti che sono significativi, che sono costruiti appositamente per massimizzare l'impatto delle loro azioni, quindi li osserviamo come sotto una lente di ingrandimento. E mi sembra, insomma, che questo si capisca benissimo, no, dal primo capitolo, dalla situazione della partita. Altra figura che metti sotto una lente di ingrandimento, sì, è Giada. Giada, questa ragazza, certo, giovane, sembra anche agitata, insomma, che pare alle volte non saper bene prendere delle decisioni, ma che poi alla fine, insomma, in qualche modo ne emerge sempre in maniera positiva, certo, riesce a risolvere anche situazioni complesse, e che in realtà all'inizio, quando la incontriamo, la cosa che mi aveva incuriosito, insomma, nel romanzo è quando Marco appunto le regala un libro, ma non si sa che libro sia, a dire la verità, quando lui le fa dono prima di che lei parta per le vacanze, e poi scopriamo invece essere, man mano, insomma, all'interno del romanzo viene fuori Acqua Buia, appunto, sì, di Lansdale. E anche il fatto che, cito quello che tu avevi scritto, quando lei ritorna appunto dalle vacanze gli dice: mi piace l'immagine che hai di me. E quindi mi sono chiesta che immagine aveva Marco di Giada all'interno del romanzo Acqua Buia di Lansdale, che poi gli ho chiesto, conoscendo insomma le sue inclinazioni letterarie, mi aspettavo più Cielo di sabbia e non appunto Acqua Buia di Lansdale, ma diciamo che potevo scegliere sia l'uno che l'altro. Esatto. Se ho scelto il secondo rispetto al primo è banalmente per il titolo, nel senso che nel titolo compare il buio, e il buio è una presenza costante del romanzo. Cioè c'è una dialettica fra la luce violenta e il buio tenebroso, insomma, che costella il romanzo. E poi chiaramente per le vicende che sono narrate, è un romanzo d'avventura, è un romanzo che sembra addirittura per ragazzi, anche se c'è tutto lo stile di Lansdale, no? Ci sono delle pagine che sono molto trash. E soprattutto quello che a me interessava è che le vicende hanno al centro di questo romanzo, come anche di Cielo di sabbia, una ragazza che dimostra spirito di intraprendenza, che risolve dei problemi, è un romanzo avventuroso, e la vicenda viene sciolta grazie a questa ragazza che è a capo di una banda, no? E questa è l'immagine, in fondo questa è l'immagine che anche Marco ha di Giada, e effettivamente poi noi leggiamo il capitolo quello intitolato Milano, che si svolge a Milano, e noi capiamo che Marco non si sbaglia ad avere questa immagine di Giada, anche se all'inizio noi lettori di Giada abbiamo l'immagine che tu hai detto prima, no? Sembra una ragazza, è sicuramente una ragazza giovane, è sicuramente una ragazza che ha un carattere acerbo, spigoloso, e sembra un po' persa, sembra un po' inerme, no? E questa è l'immagine che probabilmente attrae anche Marco, no? Perché Marco è colui che nella relazione con le donne, poi lo vedremo in parte anche con Nicole, la seconda figura femminile del romanzo, è quello che di sé ama avere l'immagine dell'uomo che interviene in aiuto, no? Se c'è bisogno della sua presenza, lui c'è e sa come intervenire e quando farlo. Per cui la posizione che Marco occupa è sempre nelle vicende che vengono narrate, di fianco a queste donne, è sempre un po' defilata, è un osservatore partecipante, ma forse più osservatore che partecipante. Per cui, siccome i rapporti che legano i personaggi del romanzo sono rapporti non statici ma dinamici, sono dialettici, noi ci accorgiamo nel corso della lettura che Giada è molto più risoluta, molto più capace di prendere delle iniziative autonomamente, senza bisogno dell'aiuto di Marco, di quanto potremmo pensare all'inizio. E infatti, per sintetizzare questo discorso, si potrebbe benissimo dire dei due, quello che sta al centro delle vicende, al centro della scena, non è mai Marco, è sempre Giada, per cui è un rapporto dialettico, c'è questo rovesciamento, no? All'inizio sembra avere determinate caratteristiche la figura di Giada, nel corso poi della lettura vediamo che le cose sono diverse, insomma. La persona risoluta, la persona che è capace di prendere delle decisioni e portarle fino in fondo è Giada, non è Marco, che partecipa, ma a noi ci viene da chiedersi, ma il suo partecipare quanto è risolutivo? Le vicende sono determinate. Sì, lei poi prende delle decisioni, insomma, alla fine del suo percorso anche abbastanza agitato, no? Alle volte certo, sembra disordinata, sembra caotica, ma poi alla fine è ben chiaro qual è il punto a cui deve arrivare, no? Lasciando spesso Marco in una situazione di stallo, no? Certo, più delle volte. Quindi... Ma anche nel piccolo, adesso, al di là della decisione di andarsene, no? Perché lei decide a un certo punto di andarsene, di lasciare Marco e di andare a Londra. Molla l'università e dice a Marco: guarda, io vado a Londra. Marco cade dalle nuvole, ma anche nella scena che poi a cui accenneremo, immagino, no? dell'ostello di Milano, c'è tutta una prossemica, una maniera di gestire gli spazi fra Marco e Giada in cui si capisce benissimo che al centro non c'è Marco ma c'è Giada, no? Sì, questo è interessante, è una figura interessante Giada, lo sviluppo, il decorso, no, di Giada è interessante perché si riesce alla fine ad apprezzare, insomma, quanto lei sia pulitiva come persona, no? Capace di agire nonostante Marco, insomma, Marco è una presenza, c'è defilata, però insomma, potrebbe forse anche non esserci. Ma Marco è in attesa dell'evoluzione, no, degli eventi. Vuoi che leggiamo subito la parte sull'ostello? Non lo so, perché sì, a questo punto forse sì, avrebbe no, anche certo, più, sì, più sì, senso, anticipo certo, quello certo, che certo. È. In realtà c'è sempre un filo conduttore, no, in questo romanzo. Lui ha detto molto bene che ogni capitolo, diciamo, è anticipato da questo titolo che indica più che altro o degli avvenimenti o dei luoghi, in modo sì. particolare i luoghi sono diciamo la colonna sonora di questo romanzo. E quindi l'altra colonna sonora è appunto il viaggio che unisce un luogo ad un altro luogo. E proprio per questo volevo leggere la cerniera, che era quella sì, dell'autostrada. Sì, sì, sì. In autostrada il traffico è intenso, colonne di autotreni procedono lentamente verso sud, occupando la corsia di marcia. Formano una fila quasi ininterrotta, una lunga muraglia rumorosa e schiumante che incombe sulle macchine che scorrono a fianco. Marco non lascia la corsia di sorpasso. Concentrato, lo sguardo fisso davanti, oltre al tergicristallo che va all'impazzata, incalza le vetture che precedono. Si fa sotto per costringerla a rientrare, se necessario usa i fari come avvertimento, sfarfallando. Vuole recuperare almeno un poco del tempo perduto. Non sarà facile, la pioggia non accenna a diminuire e la marcia procede a strattoni. Viaggiare così è snervante. Lasciato l'auto Brennero, le cose finalmente migliorano. Il flusso che procede verso ovest avanza in modo regolare. Marco può mollare un po' con la presa. Si sgranchisce stirandosi sul sedile. Accentua scherzoso le movenze flessuose, una danza esotica sotto la pioggia battente. Anche Giada al suo fianco sembra un po' meno tesa. Gli sorride condiscendente. «Sei stanco?» tutto ok, fa lui e accende la radio. Ascoltano quello che le emittenti locali hanno da offrire. Musica commerciale, gli evergreens. Quando il DJ si dilunga a parlare, lei è pronta a cambiare stazione. Stonati, cantano i ritornelli che conoscono, storpiano i brani più noti, giocano chi li indovina prima. Più si avvicina la cintura di Milano e più il traffico aumenta. Cominciano i rallentamenti. Marco spegne la radio e si concentra di nuovo. Si trovano imbottigliati prima dei restringimenti di carreggiata, procedono a passo d'uomo costeggiando i cantieri stradali. Fermi sui sovrappassi, osservano silenziosi palazzoni popolari dei sobborghi metropolitani. Finalmente sono alle uscite a direzione Malpensa e imboccano la superstrada. La situazione però non migliora. Altri lavori, altri rallentamenti. La pioggia sembra aumentare. Ci si vede a stento. Marco è costretto ad azionare l'aria calda. Giada apre un poco il finestrino. Dalla fessura comincia a gocciolare all'interno. Subito richiude. Fermi sotto ad un cavalcavia, osservano pensierosi la fascia di graffiti che ricopre la base dei piloni in cemento. Si avanza a singhiozzo. Sono le 8:30 quando Marco scarica Giada davanti all'ingresso del terminal partenze. Lui deve rimanere in macchina, è consentita solo la sosta breve e ha parcheggiato in seconda fila. Tira fuori le valigie mentre lei gli regge l'ombrello, poi la osserva allontanarsi arrancando sotto la pioggia. 20 minuti dopo è di ritorno, corre leggera verso la macchina. Stava chiudendo, giusto in tempo, per fortuna, va? Bene, fa lui, già pronto a ripartire. Si scopre che l'ostello dove Giada ha prenotato è Sesto San Giovanni. Marco imposta la destinazione sul navigatore e si rimettono in marcia. Si ributtano nel traffico e un'ora dopo ci sono. Marco trova un parcheggio di fortuna all'incrocio di due strade. Per limitare l'ingombro sulla stretta via alle spalle, è costretto a salire con le ruote anteriori sul marciapiede davanti. È tarda sera e, per fortuna, non sembra esserci passaggio. Marco dà una veloce occhiata in giro e alla fine spegne il motore. Oltre il marciapiede, una piccola area pubblica contornata di alberi completamente immersa nel buio. Non una luce ad illuminarla. Marco scende e va ad aprire la portiera dalla parte di Giada, l'ombrello aperto per ripararla dalla pioggia. Il passaggio da quella parte è angusto e per uscire da lì devo strisciare a ritroso fra loro e la macchina parcheggiata di fianco. Poi Giada recupera lo zaino dal sedile di dietro. Quando finalmente sono riuscita a districarsi, si accorgono che davanti a loro, oltre la macchina, gruppi di persone siedono sulle panchine a riparo degli alberi. Ne intravedono le sagome silenziose, immerse nel buio, la brace rossa delle sigarette che punteggia a intermittenza le tenebre rivelandone la presenza. Si allontanano in silenzio, sentendosi osservati alle spalle. Buio di nuovo, sì, sì, pioggia. Sì, anche a Milano, non solo in Umbria, perché esatto. I due capitoli. Poi torneremo all'Umbria. Si svolge in Umbria, ma anche il paesaggio metropolitano di Milano è caratterizzato dal buio ed è un paesaggio inquietante, insomma, no? Con queste presenze che sono testimoniate semplicemente dalla brace della sigaretta, loro che si sentono osservati di fianco, per cui anche Milano sta sotto il segno, no? Di questa atmosfera un po' cupa, tenebrosa, no? Sì, perché c'è anche una sorta di non detto, diciamo, questi due... questo uomo e questa donna, insomma, che stanno andando verso Milano, perché lei poi abbandonerà di fatto il rapporto con Marco e partirà per Londra, non viene tanto citato e sottolineato. In realtà sono una coppia che si accompagna, sembrano lieti nel cantare insieme, ma la tragedia in realtà si evince dall'atmosfera che sta sotto, più che dal detto fra di loro. Hai ragione. Però è in linea con Marco questo comportamento, no? Perché Marco sa quello che deve fare anche in questo caso, sa che non ha senso trattenerla. Si rende conto che è giusto, no? Che percorre la sua strada, in qualche maniera la consegna al mondo. Questa è la sua maniera di intendere il rapporto con Giada, in coerenza con quello che è stato detto prima, no? Lui che è defilato e che interviene, che fa le cose giuste perché sa come vanno fatte, sa quando farle, e per cui si rende conto che è bene che Giada se ne vada, anzi si propone di accompagnarla, no? Le facilita da uomo. La dipartita. Sì, la partenza, sì, le facilita la partenza, e lei è contenta di questo, no? Sì, per chiudere un attimino questo incontro, vi leggo brevemente, ma qui si capisce un po' il dialogo fra i due come avviene. Non hanno cenato, insomma lei ha trovato posto nell'ostello, dovrebbero cenare perché lui l'ha accompagnata, insomma, a Malpensa, e quindi non hanno cenato. E voglia di mangiare qualcosa, le chiede. Tenete presente che qua proprio si vede come i rapporti si invertano, magari ci ritorniamo. Hai voglia di mangiare qualcosa, le chiede, non molto, e tu? Nemmeno io, ma tu devi mangiare. Non puoi mica andare a dormire a stomaco vuoto. Si guardano in silenzio. Lui sorride. Non le chiede del posto letto in camerata. Nessun commento su quanto è successo. Tanto a che servirebbe? Mangiamo una pizza? Dietro all'angolo ho visto una pizzeria. Poi vado, è già tardi, aggiunge dopo un po'. Si si incamminano silenziosi. Quando entrano, il barista cinese non li saluta. Da dietro il bancone distende il braccio sinistro in un lento movimento orizzontale. Dove volete? La grande sala è buia e quasi deserta, solo poche silenziose presenze sparpagliate qua e là. Si siedono nel primo posto disponibile, a capo di una lunga tavolata di posti apparecchiati. Scorrono distrattamente la lista che il cameriere ha loro prontamente allungato. «Hai visto? C'è anche il sushi», le dice. In silenzio, uno di fronte all'altro, mangiano la loro pizza. Vorrebbe essere capace di dire qualcosa, invece non smette di guardarsi attorno. Gli altri tavoli, la gente che viene qui. Forse è proprio questo che le dovrebbe dire. «Sai una cosa? Mi accorgo che tutta la solitudine che ora sento, sei tu, qui, che me la rende sopportabile. Non è strano? Ma è così che l'ha voluto bene, sapendo sempre quando è il tempo di fare le cose, di partire, oramai». E questa mi sembrava la scena più significativa del prendere la posizione di Marco, cioè ti accompagno, vuoi da mangiare. Certo. E il silenzio che costella, diciamo, questo abbandono dei due. Certo. E la missione tacita che è lui ad aver bisogno di lei, no? Paradossale, sei tu qui che mi rende sopportabile la solitudine, però è ora di andare, è inutile prolungare l'addio, no? Se devo fare le cose fatte bene, le faccio fino in fondo, arrivata l'ora, sapendo sempre quando è il tempo di fare le cose, di partire oramai, infatti poi se ne va. Così. Questo è il rapporto di Marco con Giada. È lui che ha bisogno di lei, non lei che ha bisogno di lui sostanzialmente. Lei parte. Lei quindi. Parte. Lei sì. Parte. Però lui le facilita la partenza, insomma. Sì. È la sua maniera di vivere la virilità, insomma, sapendo quando fare le cose e cercando di farle bene. Il tema della virilità è centrale, no? Perché poi lo vedremo con la seconda figura di maschio che compare nel romanzo. Sono due maniere diverse di vivere la virilità e che sono destinate poi a confrontarsi, a entrare in un conflitto fra di loro. Stiamo conoscendo Marco in questo momento. Marco che è un po' sfasato, la partita, Marco che coltiva di sé questa immagine dell'essere uomo al fianco della propria donna, a fare le cose giuste nella giusta maniera, e, però anche Marco risoluto alla sua maniera, no? che le cose le fa. A breve comparirà una seconda maniera di intendere, no? l'essere uomini, e ci sarà fra i due una sorta di schermaglia, potremmo dire. Esatto, in realtà adesso io farei un passo indietro, semplicemente perché incontreremo appunto queste altre due figure, direi un'altra figura di donna che appunto non ve l'anticipo, e poi questo alter ego insomma di Marco, che è la figura di Javier che hai citato tu. Sì, quindi sì, io sì, no, certo. mi sento esatto in dovere di ma in realtà faccio un passo indietro perché abbiamo già accompagnato Giada alla Malpensa, quindi verso Londra. In realtà Marco, mentre Giada è ancora in vacanza con le amiche, decide quindi di recarsi in Umbria, in questo casale appunto del padre ormai, perché insomma è stato costruito dai genitori, e qui insomma la descrizione, questo piccolo capitoletto, questo piccolo paragrafo insomma dedicato al passato, ma anche a questa oasi di pace insomma che hanno costruito il padre e la madre, lo accoglie, ecco insomma lo fa sì che lui torni lì proprio per scrivere poi questo articolo sul relativismo o contro il relativismo. Contro il relativismo, esattamente. Cioè lui va in Umbria perché vuole scrivere l'articolo che gli è stato commissionato dal professore di Bologna, no? Gli è già successo di scrivere in questo ritiro umbro a Borgo Chiabella, che è un posto estremamente isolato, e quindi si immagina il suo piano è quello di fare lo scrittore eremita. Elabora un piano di scrittura. Le cose propriamente non vanno così. Il lunedì mattina lo dedica ai preparativi. È da un po' che né lui né suo padre vanno in Umbria, e anche se il piano prevede che faccia lo scrittore eremita, sa che prima dovrà rendere il posto di nuovo abitabile e quindi si attrezza. Ultimamente succede sempre così. Nei primi tempi, subito dopo l'acquisto della loro porzione di casale, scendevano più spesso, si trattenevano anche delle settimane. Allora c'erano i lavori di ristrutturazione da seguire e, quando possibile, a partecipare era tutta la famiglia. È durata così per una quindicina d'anni. I suoi genitori, al meglio delle loro capacità, occupati nelle cose che sapevano fare: costruire e sistemare, lavorare con le mani. Poi, con la fine dei lavori, le cose che cambiano radicalmente. Godersi finalmente la casa era diventato l'imperativo. Ma come si fa? Bisogna imparare e ci vuole del tempo, e tutto d'un colpo, ecco che è troppo tardi. La malattia della madre e il viaggio così lungo e sfiancante, e suo padre, ormai abbandonato in mezzo a quel nulla, ad inventarsi i lavoretti insulsi per tenersi occupato. Quanto a Marco, lui ci aveva ben provato. Era sceso da solo e in compagnia, aveva studiato e aveva scritto, aveva fatto lunghe camminate nei paraggi e visitato tutti i posti attorno, allargando progressivamente il raggio delle esplorazioni. Molto bello, sì, ma il problema era sempre stato che lui quel posto non lo sentiva suo. E così alla fine gli era diventato un peso. Andare in Umbria? Ci penso, dai. In teoria invece avrebbe dovuto piacergli molto. Probabilmente è proprio questo che pensa suo padre, o almeno, forse ancora ci spera un poco. Un ritiro, in fondo ad un vallone, all'interno di un piccolissimo agglomerato di altri casali ristrutturati, tutti, salvo quello di Renato, là di fronte, per la maggior parte del tempo deserti. Molto, molto, molto tranquillo. Cosa vuole di più? Ma le persone non sono sempre tranquille come i luoghi che le ospitano, e i luoghi non hanno sempre la virtù di trasmetterle alle persone la tranquillità. Soprattutto se fra le montagne, che si sentono a casa. Chissà com'è per gli altri, per le presenze sparute che ogni tanto compaiono lì attorno. Fatto sta che le case a Borgo Chiabella, provincia di Terni, sono quasi sempre vuote e quasi tutte in vendita. Marco prende un borsone e lo riempie con gli attrezzi da giardinaggio, quelli che sa che gli possano tornare utili. Prende il decespugliatore e lo sistema in macchina, dietro. Non vuole rischiare di scordarsene. In un'altra borsa sistema i vestiti da lavoro e gli stivali alti di gomma. Per finire fa un salto al consorzio agricolo. Non ricorda se giù è rimasta una bomboletta di schiumogeno contro i nidi di Vespa. Per il resto c'è solo da sperare di non avere a che fare con brutte sorprese. Il posto è selvaggio, non si sa mai. Qui mi hai detto che quando l'hai scritto tutto di un fiato. Sì, questa è l'unica pagina che ho scritto così, in maniera fluente. Io sono un torturatore delle frasi, nel senso che a me piace scrivere, ma è una dolce tortura la scrittura per me, per cui io limo le frasi all'inverosimile. Non è sorprendente che il risultato sia un libro, un romanzo breve, un racconto lungo di meno di 100 pagine. È l'unica pagina che mi è uscita così, diciamo così, dalla penna senza intoppi è proprio questa. E sì, il contesto umbro è quello descritto dalla pagina. Teoricamente un posto che dovrebbe essere accogliente per uno scrittore, in realtà così non è, e così non è mai stato per Marco, al di là delle vicende poi che renderanno la storia drammatica e che avvengono in Umbria. Marco in Umbria non si è mai sentito propriamente a casa, perché il paesaggio è selvaggio ed è anche troppo selvaggio per Marco. È scosso dalla violenza del paesaggio, è scosso dai rumori, è scosso dai colori, è scosso dagli odori, per cui a lui non riesce possibile sentirsi accolto in questo contesto. E poi succedono delle cose, poi ha modo di conoscere Nicole, conoscerà il suo compagno, e quindi in questo contesto che è già per lui poco accogliente e destabilizzante si innesteranno ulteriori vicende che renderanno il tutto ancora più drammatico, no? Mi hai dato l'assist, insomma, sì. Per così introdurre la seconda figura di donna, che è appunto Nicole, come dicevi prima. Questa figura poi emerge, insomma, da questo casale, e lo fa in una maniera che rende il nostro protagonista un pochettino inquieto, ecco, lo scuote fin da subito. Sì. E allora ve lo leggo. Va bene. A questo punto, da dietro la casa, compare una ragazza alta in pantaloncini corti, costume, cappellino bianco e scarpe da ginnastica. Marco la osserva mentre gli viene incontro gridando «Rex, Rex, Platz, Platz, Braf, Rex, Braf». Il cane si volta in due balzi le addosso. Lei gli accarezza il muso con entrambe le mani, vigorosamente, e poi lo costringe a mettersi seduto sulle zampe posteriori. Si capisce che non sta nella pelle, freme e muove la coda più non posso. Lei lo afferra dal collare, dandogli uno strattone ogni tanto, più un avvertimento che altro. A Marco sembra che il messaggio sia ora stato capito. Guarda la ragazza, lei gli sorride di rimando e a questo punto decide finalmente di uscire. Lei si mette a ridere, cerca di spiegarle in un italiano stentato che il cane è bravo, che vuole solo giocare. Poi passa a parlargli in inglese, allora Marco le risponde in tedesco, effetto sorpresa, una piccola rivincita. Könntest du bitte dem Besitzer des Autos sagen, dass er das Auto hier nicht abstellen kann, weil der Parkplatz zu meinem Haus gehört? Ich habe einige Sachen dabei, die ich gerne ausladen würde. La ragazza si allontana tirandosi appresso il cane, scompaiono. Passano pochi secondi e da dietro il casale fa capolino una nuova figura. Una figura scura, in una tunica nera. Così almeno sembra Marco da quella distanza. Si avvicina velocemente, a piedi nudi. È a pochi passi quando lui riesce finalmente a metterla a fuoco. Ciao, fa la ragazza. Ciao, fa la ragazza, ed è più una domanda che un saluto. Ciao, le risponde Marco. Sono il proprietario della casa qui. Marco, ciao, piacere. Ciao, fa di nuovo la ragazza. Nicole, nessun sorriso. Ciò che prima Marco sembrava una tunica, ora si rivela per quello che è, un grembiule da barbecue allacciato in vita. La ragazza è minuta, ha i capelli nerissimi, la carnagione scura, e sotto l'esiguo indumento di fortuna è completamente nuda. Non c'è il minimo dubbio. Marco fa finta di niente, cerca di mascherare l'imbarazzo. Una strana zingarella gli capita però di pensare. Chissà da dove gli è uscito. Reprime immediatamente il pensiero. Scusa se ti disturbo, ma dovrei parcheggiare. Tu hai la macchina. Potresti spostarla gentilmente? Lei è visibilmente scocciata, sulla difensiva, e consapevole che l'uomo discretamente la sta osservando. No, non è mia, è di Javier. Però adesso lui sta riposando, dorme. Ho capito, però come si fa? Scusami per il disturbo, però non posso mica lasciarla qui in mezzo. Indica la sua macchina lì di fianco. E devo scaricare un sacco di cose, non è che potresti spostarla tu? La ragazza ci pensa su un attimo. Vediamo, arrivo subito. Si allontana velocemente ed entra nel casale. Marco la osserva. Ritorna poco dopo. Ha in mano un mazzo di chiavi e sembra ancora più scocciata di prima. Sotto il grembiule adesso indossa degli shorts grigi, delle ciabattine di gomma ai piedi. Entra nella punto e accende il motore. Un balzo in avanti violento della macchina e il motore si spegne. Un secondo tentativo, il motore che va su di giri. Marco la affianca dalla parte del guidatore, si china a guardare dentro. Lei trema e impreca a bassa voce. Sembra sul punto di mettersi a piangere, tesissima. Vaffanculo, vaffanculo. Vuoi che la sposti io? Lei esce senza rispondergli. Va bene se la metto là dietro, sulla destra, dietro al vostro casale? Lei fa sì con la testa. Marco si sistema sul sedile, accende e porta la macchina sul retro del casale. La mette di punta dietro al trattore che è lì parcheggiato. Prende le chiavi e ritorna indietro. La ragazza però non c'è più. Marco guarda le chiavi, torna alla punto e lascia sul sedile del guidatore. Poi parcheggia la sua al solito posto. Sì, Nicole, questa è la Nicole. comparsa di Nicole nel romanzo. È chiaro che destabilizza immediatamente Marco ed è una presenza che attrae immediatamente Marco e su cui Marco proietta la sua immagine dell'essere donna, diciamo così, no? Perché avete visto che Nicole si trova in difficoltà, insomma, non riesce a spostare la macchina. E cosa fa Marco, coerentemente con l'immagine di Marco che sta emergendo, un po' sulla falsariga di quello che ha fatto anche con Giada, è pronto a intervenire, affianca Nicole, entra in macchina ed è lui a spostare la macchina. Questo sembra un episodio secondario, ma in realtà non lo è. Perché poi noi ci accorgeremo che Marco proietta su Nicole l'immagine che aveva di Giada, però in un contesto che è completamente diverso. Lui utilizza qui la fantasia, si immagina che Nicole sia quel tipo di ragazza, no? Che tacitamente gli stia chiedendo di essere soccorsa perché il contesto è selvaggio, lui è destabilizzato, per cui anche Nicole, che non sa spostare la macchina, necessariamente è anche destabilizzata, insomma, non capace di gestire la situazione. Però è una costruzione di Marco dovuta alla sua fantasia. È sempre, nel corso della vicenda, Marco è sempre meno lucido, è sempre meno capace di gestire razionalmente le situazioni in cui si trova inserito, immerso. E questa poca lucidità lo porterà poi a, insomma, scontrarsi con la realtà, cioè la fantasia non fa prede. In Umbria la sua fantasia, l'immagine che ha di sé come uomo e l'immagine alimentata dall'immaginazione che proietta su Nicole non fanno presa sulla realtà, per cui lui prima, poi alla fine si scontra contro la realtà, no? Recalcitra, no? A piegarsi alle sue fantasie. E sì, Nicola anche è una figura molto, molto interessante e molto complessa. Però noi Nicola la conosciamo soprattutto attraverso gli occhi di Marco, filtrata attraverso l'immaginazione di Marco, e ci sorge il sospetto che Marco stia sbagliando, che se poteva funzionare la cosa con Giada in un contesto completamente diverso, così selvaggio, così cattivo, così destabilizzante per quello che Marco è, la sua fantasia, insomma, sia controproducente, gli si possa Ritorcere ritorcere contro, ed è effettivamente quello che infatti, poi. infatti poi l'atmosfera diventa sempre più Sempre più cupa. cupa, sempre più cupa. E Marco diventa sempre più cupa e Marco va fino in fondo, perché a spingerlo fino al fondo è proprio la sua fantasia, la sua incapacità di prendere atto che la realtà ha certe caratteristiche, che un conto è la realtà e un conto sono le sue fantasie, che un conto è quello che è lui come uomo e un altro conto invece l'immagine che lui vuole avere di se stesso. Un conto è Nicole che non conosce e un conto è la sua proiezione su Nicole. E questo poi in una realtà cattiva, diciamolo pure, come quella, e violenta, potenzialmente violenta come quella dell'Umbria, può avere un esito tragico. E l'esito tragico è dato anche dal fatto che lui proietti su questo suo alter ego, che è appunto Javier, un'immagine del tutto distaccata da quella che potrebbe essere, insomma, l'immagine reale di questa altra figura maschile, insomma, che c'è Certo. all'interno del romanzo. Cioè, sempre un po' citata all'inizio, vagamente accennata, e poi che cresce sempre di più, diciamo, nell'io del Del protagonista. protagonista, certo. Citata. Allora, le discese in Umbria sono due, c'è una prima discesa e una seconda discesa. Nella prima discesa Marco ha un piano e cerca di attenersi al piano, e il piano è quello appunto di fare lo scrittore eremita, no? Di trovarsi in un contesto che gli consenta di scrivere l'articolo che gli è stato commissionato, e il piano, l'abbiamo capito, naufraga alla grande. In questa prima discesa in Umbria ha modo di conoscere Nicole, non ha modo di conoscere il suo compagno, Javier. Javier è una figura fantasmatica, non lo vede mai sostanzialmente, ma questo non significa che non se ne colga la presenza, e come la presenza di Javier si sente, anche C'è se non lo sempre il si vede mai. trattore. Sì, trattore anche altro, insomma, E che anche non altro, diciamo, sì. no? Proprio la lettera si sente che Sì. c'è, si sente che c'è. La grande entrata in scena di Javier si ha con la seconda discesa in Umbria, e lì Javier riempie la scena, perché è magnetico come maschio, insomma, ha una virilità che è diversa rispetto a quella di Marco. Mentre Marco è gentile, sa come Premuroso. fare, premuroso, sa come e quando fare le cose, e ripeto, a lui piace coltivare di sé questa immagine, perché in qualche maniera lo giustifica, gli crea anche uno spazio defilato, ma uno spazio da occupare per lui. Cioè, Javier occupa la scena, Javier sta al centro, Javier è circonfuso di un alone magnetico, Javier riempie lo spazio. e quindi queste due virilità, si instaura una sorta di dialettica fra queste due maniere di intendere l'essere uomini e l'essere maschi. E diciamo così, e dopo non vorrei approfondire troppo il discorso, per non togliere poi il piacere della lettura, al centro della schermaglia che nasce fra i due c'è Nicole. Nicole che è la compagna di Javier, Nicole di cui Marco ha un'immagine. Quanto reale sia questa immagine, poi lo si vedrà. E quindi arriviamo verso, ovviamente senza anticipare, finale, per carità, no, del romanzo, ma diciamo che il romanzo ha un andamento di discesa verso gli inferi, un descensus ad inferos davvero, per cui diciamo l'atmosfera si tinge sempre di tinte più cupe e in qualche modo insomma queste due presenze entrano in conflitto e Marco lo sente, lo evince proprio su se stesso. Sì, l'ultimo capitolo è proprio costruito come una discesa agli inferi, ma in generale tutto il romanzo, nel romanzo noi vediamo una sorta di progressione, di climax, potremmo... All'inizio la realtà è inquietante perché Marco, l'abbiamo visto, è spaesato, è sempre un po' sfasato. Poi la realtà presenta a Marco il suo lato cattivo e la realtà diventa minacciosa, succedono delle cose che un passo alla volta prosciugano il mondo di Marco e Marco rischia di dissolversi con il suo mondo, e poi alla fine nell'ultimo capitolo la realtà diventa cattiva, diventa oggettivamente pericolosa e Marco ci si scontra frontalmente. Vogliamo leggere quest'ultima parte pure. Poi passa una notte tormentata, una notte di pensieri che gli attraversano la mente senza prendere forma e che non lo fanno dormire. Quando si alza è già mattina inoltrata. Proprio non gli riesce di svegliarsi ad un orario decente. Per fortuna che non ha nulla di importante da fare. Con questo pensiero e con la tazza del caffè fumante in mano, esce sul terrazzo di dietro. Confida nell'aria frizzante del mattino. Le immagini della notte gli hanno lasciato una coda di sottile e profonda inquietudine, che ora sente dentro come un peso leggero. Non gli sarà facile sgravarsene, lo sa, tanto più che il cielo è una coltre compatta di nuvole grigie. Ogni tanto una folata di vento lo investe di lato e gli fa accapponare la pelle. C'è aria di pioggia. I cipressi davanti oscillano lenti. Borgo Chiabella nella sua veste sepolcrale. Anche le cicale tacciono. Sulla destra vede il trattore di Javier parcheggiato sul retro del casale, ma davanti l'appunto non c'è. Finisce il caffè e rientra. 5 minuti dopo è all'imbocco del tratturo di fronte all'ingresso di casa. Ha deciso di risalire la collina. Quando dopo mezz'ora è davanti all'apertura fra gli alberi che dà sulla radura, non ci pensa due volte ed entra. Costeggia il campo seguendo le tracce del trattore che risalgono sulla sinistra. Si ferma quando ha di fronte la barriera degli alberi che contornano la cima del terreno. Poi prosegue inoltrandosi nel bosco e dopo pochi passi è nello spiazzo su cui si innalzano le cataste della legna tagliata. Si guarda attorno. Nota che altre cataste sono disseminate qua e là, come tumuli si ergono a costellare il sottobosco in falso piano in quel fazzoletto nascosto della collina. Sulla destra il rimorchio del trattore in leggera salita con la barra affondata nel terreno e le zeppe a bloccare le ruote. Dalle sponde le cinghie penzolano lasche. Sotto al pianale di dietro il torso capitozzato della radice e intorno una corona di schegge di legno. Marco si mette in ascolto. Solo il frusciare delle chiome e il ticchettio della pioggia che cade leggera. Gira dietro alle cataste più vicine e poi prende per il bosco, risalendo il pendio. Poco oltre la salita si impenna. Torna indietro fiancheggiando il lato nascosto del rimorchio. Un'accetta è appoggiata col manico alla ruota del mezzo, l'afferra e la solleva, soppesandola. Poi si china e la rimette al suo posto. Prosegue e dopo pochi passi sbuca di nuovo sul campo. Si ferma a guardare il panorama grigio che gli si allarga davanti. Quindi prende sulla sinistra, percorrendo il tratto rimanente della carrareccia verso il fondo invisibile del terreno. Quando ci arriva si trova nel mezzo di uno spiazzo più grande con il suolo tormentato dalle impronte del trattore. Un'area di manovra. Più in basso, sulla destra, la pista prosegue cingendo il bordo dal campo ancora per una ventina di metri e poi si interrompe definitivamente contro la barriera delle piante. Lì, due faggi abbattuti giacciono con le chiome posate di traverso sul terrapieno di zolle del campo di lato. Marco prende in quella direzione e si ferma davanti alla prima delle due piante tagliate. Appoggia il piede sul tronco. È allo scoperto e la pioggia si fa più intensa. Sopra la sua testa grosse nuvole screziate di grigio procedono compatte in un movimento maestoso. Il vento è a tratti sferzante. Marco ne ascolta il sibilo crescere ad intervalli e poi aleggiare sospeso sulla foresta. Dopo pochi secondi, le fronde tutt'intorno, come ridestate all'improvviso da un sonno profondo, rivolgono al cielo in risposta un loro lento e frusciante gesto di supplica. Marco è avvolto dai rumori, la pioggia lo investe di taglio. Tenendosi al coperto sotto gli alberi, risale di corsa quel tratto della pista e poi, al limitare dello spiazzo, si butta sulla destra, inoltrandosi di alcuni passi nel bosco. Si mette al riparo del telone, che è teso fra gli alberi poco oltre la prima fila delle piante. Si guarda attorno. Lo spazio là sotto è ingombro di attrezzi: una grande cassa metallica verde con sopra una motosega, due taniche di metallo, un cavalletto, un ceppo sfrangiato in cima, due picconi e un badile appoggiati al bordo della cassa. Alle spalle dello spazio di lavoro, altre catasse di legna riparano nel sottobosco. Marco esce dal retro e si immerge nel folto della foresta. Poco oltre, agli ultimi tumuli, il bosco si fa più scosceso. Prosegue a zigzag, appoggiandosi ai tronchi degli alberi fino a quando non raggiunge la scarpata. Abbracciato all'ultimo albero disponibile, getta uno sguardo alla gola sottostante. Solo sfasciume, altro non riesce a vedere. Risale e 5 minuti dopo è di nuovo sotto al telone. Adesso piava di rotto, in modo regolare. Marco osserva le nuvole di vapore fare capolino da dietro la fila degli alberi che contornano il lato opposto del campo. Si sfrangiano, innalzandosi in esili pinnacoli irsuti, e subito scompaiono dissolvendosi. Decide di non aspettare, ritorna sui suoi passi, costeggiando la carareccia al riparo sotto la prima fila degli alberi. Quando a metà del tratto, in contropendenza che delimita il margine superiore del terreno, si ferma e si mette in ascolto. Gli sembra di sentire un rumore, il borbottio lontano di un motore, e poi all'improvviso vede comparire il trattore all'imbocco della radura. Svolta e prosegue lentamente risalendo la pista. Marco, senza pensarci, retrocede di 2 passi e si accoccola nascosto dietro al tronco di un albero. Aspetta. 2 minuti dopo, vede Javier nella cabina sfilargli davanti. Ha l'impressione che passando si sia leggermente voltato, ma è solo un'impressione. Attende e quando il rumore si è fatto più flebile, risale ancora un poco e prosegue nel fitto del bosco. Raggiunto lo spiazzo con rimorchio, procede sempre al coperto, risalendo l'avvallamento e poi ridiscende dal versante opposto. Finalmente sbuca sul tratturo. Scende a rotta di collo sotto la pioggia. Un quarto d'ora dopo, completamente intirizzito, è a Borgo Chiavella. Vede con la coda dell'occhio la punta parcheggiata di fianco alla vasca. Senza rallentare, si avvia verso l'ingresso. Quando è alla base della scala, nota qualcosa ai piedi della porta d'entrata. Risale lentamente, tenendosi al riparo del tetto. Sono 2 bottiglie nere con sotto un foglio ripiegato. Marco si china e lo apre. Ti ho cercato per stasera. Spero siano di tuo gradimento. Javier. Sì, non diciamo di cosa va alla ricerca Marco, allora questo era un estratto dell'ultimo capitolo e ci fa capire un po' l'atmosfera che si respira, l'atmosfera cupa di minaccia incombente e vediamo che Marco, l'abbiamo già conosciuto, è attivo, sta facendo qualcosa. Cosa starà facendo? Poi lo scoprirete leggendo il romanzo, insomma, voleva essere un saggio per capire appunto che... Quello che si diceva prima, che progressivamente il romanzo si incupisce e la realtà con cui interagisce Marco e interagisce attivamente Marco, sostenuto da quella che diventa una sorta di ossessione, si fa pericolosa. E si capisce che questo alter ego, Javier, è una figura minacciosa. C'è una sfida, no? Un gioco fra di loro, una schermaglia che diventa... che forse è pericolosa, forse può degenerare in violenza. Esattamente. Altro, sì, altro Sì, non altro direi non direi neanch'io. sull'ultimo E per capitolo. riassumere un pochettino brevemente, no? Anche perché mi sa che i tempi altrimenti non ce lo concedono, la caratteristica, insomma, di questo romanzo, del romanzo breve, a mio avviso, anche un po' dalla lettura che si evince, è della sintassi abbastanza paratattica, Sì, no? sì. Stringata, periodi molto brevi, frasi che chiudono, no? Quasi come un palcoscenico con la chiusura appunto del sipario, no? Il più delle volte su queste scene che si aprono, no? Che scelta hai operato? Io so che io ti conosco, so che sei un filosofo della scienza, che ami in modo particolare Wittgenstein, e quindi insomma un po' ci ritroviamo anche all'interno, quindi non sono periodi di grande riflessione, ecco, no? Di No, sì. grande descrizione. non sono periodi di grande riflessione, sono periodi descrittivi. Sì, descrittivi sì, infatti. Sì, descrittivi sì, anche se, ho detto prima, che non è un romanzo psicologico, non ci sono psicologie, e non c'è propriamente nemmeno la volontà di costruire un mondo per poi raccontarlo. Quello che io ho voluto fare è costruire delle situazioni, dei contesti. Delle situazioni, dei contesti che però a me interessava che fossero credibili, perché all'interno di questi contesti, queste situazioni, noi vediamo operare Marco. E Marco a me interessava come una sorta di cavia da esperimento, insomma, e quindi l'ho trattato male, perché a me interessava... Quindi se autobiografia c'è, certo, maltrattata, diciamo, no? Per chiudere, sì, in una composizione ad anello, sì. E sì, perché a me interessava capire Marco, capire il suo mondo, e per farlo ho organizzato degli esperimenti. Per cui sì. Il linguaggio che dice, ma in realtà esprime l'indicibile. Esprime l'indicibile, sì, adesso questo diciamo, sì, è l'aspetto filosofico, se vogliamo proprio tradurre. La strategia narrativa, sempre che di strategia narrativa si possa parlare su un registro filosofico, allora sì, può entrare in gioco Wittgenstein, sicuramente entra in gioco la mia sensibilità di lettore, la mia sensibilità di uomo, la mia sensibilità di intellettuale, la mia sensibilità di filosofo. Per cui a me questo aspetto, che la parola evochi anche, non semplicemente nomini, denomini, ma evochi, risulta particolarmente affascinante, proprio a 360 gradi, sia come lettore, come scrittore, anche come filosofo. Io puntavo a quella che i linguisti chiamano l'ipersignificatività dell'arte, non cercando di dire troppo, ma cercando di mostrare, di indicare, di evocare, e la lingua come l'ho usata io rispondeva a queste esigenze. Bene, io non so, volevo... magari allora lo diciamo che, sì, che è in vendita, sì. Anja, se sì, vuoi, se avete anche voi, perché altrimenti non leggo più niente, se no vi ho letto tutto il romanzo, non è esatto, ho letto troppo, però insomma, ecco, se avete anche delle curiosità da così rivolgere a David, ben volentieri, sì, penso che grazie, potrà rispondere alle vostre curiosità, insomma, con in merito a quello che è questo romanzo, questo suo parto nel trentennale parto, insomma. Il prossimo aspetteremo, insomma. La media è 10 anni, la media è 10 anni, 10 anni. So se avete qualche curiosità da... Siete stati molto chiari, secondo me, cioè, almeno a me è una curiosità infinita, lo voglio, sì, devo leggere, no? Grazie. Perché la presentazione è stata molto, molto bella, insomma, molto descrittiva, anche nonostante non descrizione, no, descrive, sì, descrive, quello descrive, che voleva fare, ha evocato molto. Grazie. La dell'Umbria un po' mi incuriosisce. Ah, sì. Perché l'Umbria? Ma l'Umbria, guardi, ritorniamo all'autobiografia, l'Umbria perché la conosco e perché conosco anche i suoi lati selvaggi, per cui quando io descrivo quel paesaggio so di cosa sto parlando, e questo da scrittore mi tranquillizzava, nel senso che sono ambienti, è un fazzoletto isolato dell'Umbria in cui è credibile che possono avvenire quelle vicende, è proprio natura selvaggia. Così come i paesaggi, adesso mi offri l'occasione, insomma, così come i paesaggi nostrani, insomma, perché sì. Marco è anche un grande camminatore, camminatore, quindi sì. Le salite e le discese caratterizzano proprio questo romanzo. Diciamo, la dialettica che citavi, sì, poco fa è proprio questo, no? Coppie contrapposte, buio luce, luce intensa e buio molto oscuro, le due virilità, l'alto e il basso, e le figure femminili anche, no? Certo. Anche io oserei anche una contrapposizione padre-figlio, anche che è abbastanza chiara, non l'abbiamo citato, ma chi sì. lo rileggerà, insomma, senza dire niente, sì, sì. Ecco, potrebbe, insomma, sì, in qualche modo. Ma in questo caso si può parlare, cioè, contrapposizione anche di affinità, nel senso affinità. Ma comunque, sì, sì, ma c'è anche contrapposizione, sì, perché il padre di Marco è uno che lavora con le mani, Marco è uno che lavora con la testa. Con la testa, esattamente. Per cui c'è una contrapposizione, ma c'è anche una grande affinità. Affinità, assolutamente. Sì. Bene, io allora, cioè, se non avete altre curiosità, vi ringrazio, vi ringraziamo insomma di essere grazie, intervenuti. Vi ricordo che ci sarà un'altra presentazione il 22 di settembre, sì, presso la cartolibreria Cappelli, quindi presso la libreria Cappelli, e quindi insomma estenderemo l'invito ancora. Io vi ringrazio ancora personalmente, ringrazio ancora ovviamente, David. Grazie.